Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Quando Madame de Marelle se ne fu andata, Duroy mormorò fregandosi le mani: «Però, che cara!» Qualche giorno dopo ricevette un altro bigliettino azzurro che diceva: «Mio marito arriverà stasera, dopo 6 settimane di ispezione. Chiusura per 8 giorni, dunque. Che scocciatura, tesoro mio! Tua Clo!» Duroy rimase di princi sbecco. Davvero non ci pensava più che avesse un marito. Ecco un tipo che gli sarebbe piaciuto vedere in faccia almeno una volta, non fosse che per saper com'era fatto. Infine, una mattina, nuovo telegramma con queste 4 parole. «Stasera alle 5. Clo». Cominciò allora tutta una serie di scorribande in locali equivoci, dove va a sollazzarsi il popolino. E Duroy scoprì nella sua amante una vera passione per quel vagabondare da goliardi in bisboccia. Si presentava al solito appuntamento con un vestituccio di rigatino e una cuffia da cameriera d'operetta. Ma nonostante la scelta d'un abitino così semplice nella sua grazia, continuava a portare gli anelli, i braccialetti e gli orecchini di brillanti, tirando fuori questa scusa se lui la supplicava di levarseli. Tanto li prenderanno per cocci di bottiglia. Si reputava ammirevolmente travestita. E sebbene in realtà il suo fosse il nascondersi dello struzzo, andava nei ritrovi più malfamati. Avrebbe voluto che Duroy si vestisse da operaio, ma questi si oppose e non abbandonò mai il suo correttissimo abito da giovanotto elegante, senza voler nemmeno sostituire il cilindro con un cappello floscio. S'era consolata di tanta ostinatezza con questa riflessione: «Penseranno che io sia l'amore ancillare d'un uomo di mondo». E la commedia la trovava gustosissima. Talvolta chiedeva a Duroy con un brivido: «Cosa faresti se in uno di questi postacci m'oltraggiassero?» «Ma ti difenderei, per bacco», rispondeva lui con aria smargiassa. Lei allora gli stringeva il braccio, beata, con un vago desiderio, probabilmente, che la oltraggiassero per vedersi difesa, per vedere uomini battersi fra loro per lei, magari quegli stessi uomini lì col suo adorato. Ma queste scorribande, che si ripetevano 2 o 3 volte la settimana, cominciavano a stancare Duroy, che d'altronde, da qualche tempo, riusciva a malapena a procacciarsi il mezzo Luigi necessario per la carrozza e le consumazioni. Conduceva adesso una vita stentatissima, ancor più stentata di quando era impiegato alle Ferrovie Nord, perché, avendo scialacquato, senza star lì a far conti, durante i suoi primi mesi di giornalismo, sempre con la speranza di guadagnar domani grosse somme, aveva esaurito ogni sua risorsa e ogni suo mezzo per procacciarsi quattrini. Un metodo molto spiccio, quello degli anticipi chiesti in cassa al giornale, ben presto non funzionò più di fronte a un debito, ormai, di ben 4 mesate, più i 600 franchi anch'essi anticipatigli sulla collaborazione a un tanto a riga. Doveva inoltre 100 franchi a Forestier e 300 a Jacques Rival, che non era stretto di borsa. Ed era divorato da un'infinità di debitucci inconfessabili, di 20 o perfino di 5 franchi. Il 14 dicembre si trovò così senza un soldo in tasca e senza un'idea nella mente per acciuffar qualche po' di moneta. Fece come già aveva fatto spesso, saltò il desinare e trascorse il pomeriggio in redazione lavorando, pieno di rabbia e preoccupato. Verso le 4 ricevette un bigliettino azzurro della sua amante che diceva: «Vogliamo cenare insieme? Faremo poi una delle solite scappatelle». Rispose immediatamente: «Cenare è impossibile». Poi rifletté che sarebbe stato stupido privarsi dei piacevoli momenti che lei gli avrebbe procurato e aggiunse: «Ma ti aspetterò alle 9 nel nostro appartamento». e mandato uno dei fattorini a portare il biglietto per risparmiare i soldi del telegramma, pensò a come sbrogliarsela per procurarsi il pasto serale. Alle 7 non aveva ancora escogitato nulla e una fame da lupo gli torceva le budella. Ricorse allora ad uno stratagemma disperato. Aspettò che i colleghi ad uno se ne fossero andati tutti e quando fu solo diede un'energica scampanellata. Accorse l'usciere del direttore, rimasto di guardia agli uffici. Ritto, nervoso, frugandosi nelle tasche, Duroy disse con voce brusca: «Foucard, mi sono scordato il borsellino a casa e devo andare a cena a Luxembourg. Prestami un po' mezzo scudo per la carrozza». L'uomo cavò 3 franchi dal panciotto e fece: «Se le occorre di più, signor Duroy...» «No, mi bastano. Molte grazie». E afferrate le monete d'argento, Duroy scese le scale di corsa e andò a cena in una trattoriuccia dove finiva sempre nei giorni di magra. Alle 9 stava aspettando la sua amante coi piedi davanti al fuoco nel salottino. Giunse tutta animata, piena d'allegria, eccitata dall'aria fredda della strada. «Se ti va, faremo prima un giretto. Poi torneremo qui alle 11. Il tempo par fatto apposta per passeggiare», rispose immusonito. «Perché uscire? Si sta così bene qua». «Vedessi», riprese lei senza levarsi il cappellino, «c'è un chiaro di luna. È un vero piacere stasera andare a spasso». «Può darsi, ma a me di andare a spasso non va». Era furente e Clotilde rimase colpita, ferita dal tono della sua voce. «Ma che ti piglia? Perché fai così? Se ho voglia di fare una passeggiata, non capisco perché tu debba prendertela tanto». Lui si alzò esasperato. «Non me la prendo affatto, mi scoccia. Ecco tutto». Lei era una di quelle donne che la resistenza irrita e la sgarbatezza esaspera. Rispose sdegnosa, con fredda collera: «Non sono abituata a sentirmi parlare così. Andrò allora da sola. Addio!» Lui capì che non scherzava e di slancio le prese le mani e gliele baciò. Lei s'era liberata con uno strattone e aveva raggiunto la porta. Lui la rincorse e la chiuse fra le braccia. «Ascolta, Clo, mia piccola Clo, stammi a sentire, fammi questo piacere». Lei accennava di no col capo senza rispondere, scansando i baci e cercando di svincolarsi dalla sua stretta per andarsene. «Clo, mia piccola Clo», balbettava lui, «ho i miei motivi». Guardandolo bene in faccia, Clotilde si fermò. «Tu menti! Quali motivi?» Duroy arrossì, non sapendo che dire. E lei riattaccò indignata: «Lo vedi che sei un bugiardo?» E con uno scatto di rabbia e gli occhi pieni di lacrime, gli sfuggì via. L'afferrò ancora una volta per le spalle e, costernato, pronto a confessar tutto pur d'evitare una rottura, disse pieno di disperazione: «Non ho un soldo in tasca, lo vuoi sapere?» Lei si fermò di colpo e, guardandolo nel bianco degli occhi per cercar di leggervi la verità, domandò: «Hai detto?» Duroy era arrossito fino alla radice dei capelli. «Ho detto che non ho nemmeno un soldo, ora hai capito? Nemmeno un franco, nemmeno mezzo franco, nemmeno di che pagarti una bibita in un caffè. Mi costringi a confessare cose che mi fanno avvampar di vergogna». Clotilde lo guardava fisso fisso. «Ma allora è proprio vero quel che dici?» In un baleno lui si rivoltò tutte le tasche, quelle dei pantaloni, quelle del panciotto, quelle della giacca, e mormorò: «Te sei contenta adesso?» Allargando le braccia in uno slancio di passione, lei gli si buttò di schianto al collo barbugliando: «Oh, povero amore mio, tesoro mio, se avessi immaginato! Ma come t'è potuto capitare questo?» Lo fece sedere e si sedette anche lei sulle sue ginocchia. Poi, tenendogli le braccia intorno al collo e baciandolo ogni minuto sui baffi, sulla bocca, sugli occhi, volle a tutti i costi che le raccontasse l'origine dei suoi guai. Duroy inventò una storia commovente. aveva dovuto aiutar suo padre in cattive acque. S'era visto costretto non solo a dargli tutti i suoi risparmi, ma addirittura a indebitarsi fino ai capelli per lui. Lei tacque. Poi, stringendolo fra le braccia, mormorò: «Sapessi quanto bene ti voglio». Fu una delle loro più belle serate d'amore. Sul punto d'andarsene, lei disse sorridendo: «Ah, chissà che piacere, in una situazione come la tua, trovarsi in tasca dei soldi dimenticati, una moneta andata a finire sotto la fodera». «Altro che piacere», fece lui con piena convinzione. Clotilde volle tornare a casa a piedi, con la scusa che c'era una splendida luna e che lei si beava a guardarla. Era una notte fredda e serena di primo inverno. I passanti e i cavalli procedevano svelti nel gelo limpido e pungente. I tacchi risuonavano sul marciapiede. Nel lasciarlo gli disse: «Vuoi che ci rivediamo posdomani?» «Ma certo». «Alla stessa ora?» «Alla stessa ora». «Addio, amor mio». Duroy tornò a casa a passo svelto, chiedendosi cosa avrebbe mai inventato l'indomani per togliersi dagli impicci. Aprendo la porta della sua stanza, si mise la mano in tasca per cercare i fiammiferi e rimase di stucco, sentendosi fra le dita una moneta. Come ebbe acceso il lume, la prese per guardarla. Era un Luigi da 20 franchi. C'era da impazzire. Lo girò, lo rigirò, cercando di indovinare per quale miracolo si trovasse lì. Non poteva certo essergli caduto in tasca dal cielo. Poi, d'un tratto, capì tutto e una collera piena di indignazione si impossessò di lui. La sua amante, infatti, non gli aveva forse accennato a una moneta scivolata sotto la fodera e ritrovata al momento del bisogno? Era stata lei a fargli quell'elemosina. Dio, che vergogna! Imprecò: «Benone, ma vedrà che accoglienza posdomani! Vedrà che bel quarto d'ora!» Clotilde giunse tutta affettuosa, premurosa, timorosa. Come l'avrebbe accolta? E per evitare un'immediata spiegazione, se lo tenne stretto a lungo fra le braccia. Duroy, da parte sua, pensava: «Troverò pure il modo d'entrare in discorso. Troverò bene un appiglio». Non ne trovò appigli e non disse nulla, facendo marcia indietro di fronte alle prime parole che avrebbe dovuto dire su un tasto così delicato. Lei non parlò affatto d'uscire e fu in ogni senso deliziosa. L'indomani, nel pagare il conto del desinare, mentre cercava le quattro monete che dovevano essergli rimaste, Duroy s'accorse che erano cinque, una delle quali d'oro. Pensò lì per lì che la sera prima gli avessero dato di resto per una svista un Luigi di più. Poi comprese ed ebbe un tuffo al cuore per l'umiliazione di quella insistente elemosina. Quanto si pentì di non aver accennato a nulla. Per 4 giorni fece numerosi quanto infruttuosi tentativi per procurarsi 5 Luigi e finì col mangiarsi anche il secondo di Clotilde. Costei, la prima volta che si rividero, trovò il modo, anche se lui le aveva detto fuor di sé: «Vada bene, non ricominciamo con lo scherzetto delle altre sere, perché m'arrabbio davvero», di infilargli altri 20 franchi nella tasca dei pantaloni. Quando se ne accorse, sacramentò: «Mondo boia!» E li trasferì nel panciotto per averli sotto mano, dato che si trovava senza un centesimo. Riuscì a far tacere la propria coscienza con questa argomentazione: «Restituirò tutto in blocco. In fondo, non si tratta che di denaro dato in prestito». Il cassiere del giornale, cedendo alfine alle sue disperate preghiere, accondiscese a dargli uno scudo al giorno, quanto bastava appena appena per mangiare, non certo per restituire 60 franchi. Forestier, malato, indebolito, sempre con la sua tossaccia, gli rendeva al giornale la vita difficile e pareva si lambiccasse apposta il cervello per appioppargli le più fastidiose incombenze. Un giorno, in uno scatto di nervi dopo un lungo accesso di tosse, arrivò addirittura a dirgli, a proposito di un'informazione che George non gli aveva ancora procurato, «Cristo, sei più idiota di quanto pensassi!» L'altro fu lì lì per schiaffeggiarlo, ma si contenne e se n'andò mormorando, «Te ne accorgerai tu!» Gli era balenata un'idea e aggiunse, «Ti farò becco, bello mio!» E s'allontanò fregandosi le mani, tutto contento di quel suo proposito. Volle metterlo in atto fin dal giorno dopo e fece una visita esplorativa alla signora Forestier. La trovò che stava leggendo un libro, sdraiata sul divano. Costei gli porse la mano senza scomporsi, voltando appena il capo, e disse «Buongiorno, bella mi». Fu come se gli avessero dato un ceffone. «Perché mi chiama così?» «Ho visto la signora De Marelle l'altra settimana», rispose lei sorridendo, «e ho saputo come l'hanno battezzato in casa». I modi urbani della giovane signora lo tranquillizzarono. Che motivo aveva di temere, del resto? La signora Forestier riprese, «Lei vizia la mia amica. A me, invece, mi si viene a trovare quando ci se ne ricorda, ad ogni morte di papa o giù di lì, vero?» Duroy disse deciso, «Non venivo a trovarla perché era meglio far così». «Come?» domandò lei senza capire. «E perché?» «Perché sono innamorato di lei. Oh, un poco, soltanto un poco. E non voglio innamorarmi del tutto». Non parve né stupita, né urtata, né lusingata. Continuava a sorridere con lo stesso sorriso indifferente e rispose tranquilla, «Oh, può venire egualmente. Di me non si resta mai innamorati a lungo». Fu colpito dal tono più che dal senso di quelle parole e domandò, «Perché?» «Perché è fatica sprecata. E io lo faccio capire subito. Se lei non mi avesse detto prima i suoi timori, l'avrei rassicurato e l'avrei anzi esortato a venire il più spesso possibile». Duroy esclamò patetico. «Già, come se si potesse comandare ai sentimenti». La signora Forestier si voltò verso di lui. «Amico mio, per me un uomo innamorato è cancellato dal numero dei vivi. Diventa uno stupido. E non soltanto uno stupido, ma anche un essere pericoloso. So benissimo che per voi altri uomini l'amore non è che una sorta d'appetito fisico, mentre per me sarebbe al contrario una specie di comunione spirituale che non appartiene alla vostra religione. Voi vi attenete alla lettera, io allo spirito». Non sorrideva più. Aveva un volto calmo e freddo e disse scandendo ogni parola, «Io non sarò mai, dico mai, la sua amante, se lo metta bene in testa». «È dunque del tutto inutile. Sarebbe perfino dannoso per lei insistere nel suo desiderio. E ora che il dente è tolto, vuole che diventiamo amici, buoni amici? Ma badi, amici autentici, senza sottintesi». Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.